non lo sono. Scrivo barre, troppo zarre, placate, d'oro e carbonio. E non mi fotte nada, entro alla Barry White, 300 all'ora verso il bar. Tom Sykes, testa d'Amsterdam, Amsterdam, Isolator, yeah. Occhi rossi, occhi rossi, più di Terminator, 3 ore in viaggio, yeah. Lugano Destination, più canne in auto che canzoni in 3 compilation. Hot party, bar oceano con i saldi, fra. I miei fra fra rischiano gli infarti, yeah. Tutta situazione G e giù dal balcone per i debiti. Non c'è nulla da fare come i medici, credici fra Mad Studio, Mad Ra, Franco Scitto, Monster Track. Tu non matchi col buncia, Skills come Ronnie, Bronx come Sonny, Andrews right al beat, un beat così tu te lo sogni, yeah. Entro nel locale alla Barry White, Barry White, yeah. Barry White, ah. Loco, prende come una skyline, vai. Skyline, ti apro come un libro con i Butterfly. Spacco come il beat di Andrews Wright, Andrews Wright, Andrews Wright. Entra la Barry White, faccio un live, più casino della Jaguar, Irvine. La mia squadra para tutto, Benji Price, vive in uno sparatutto, Far Cry. Sono al verde, Starlight, S.S. Terzo Reich. Mi rompo il capo, mi compro un capo, sono un rompicapo, Mastermind. Venite in massa, sentite in cassa, sembra che passa, venite in massa, venice sacra, felice basta. Mega serata, decide il karma. Senza senso, come fare qualche foto insieme a una statua di cera. Senza tempo, come in piazza alle 4 di notte con la vuvuzela. Cazzo ti incazzi, se non fai fatti, sei solo un clown come Classy. Se ridi mi fai ridere, Eddie Murphy. Ti ammazza i piri, ammazza vampiri come Buffy. 200 kg a pranzo, 4 primi come Garfield. Supera il livello del pivello, butto sul cappello del bidello. Bello, tu vai da papi e dici voglio quello. Io con arretrati per qualche spinello. Come Achille da coltello, io dei killer sono il meglio. Carlo Magno col suo regno, ammazzo la traccia e spacco come sto beat e sto ritornello. Entro nel locale alla Barry White, Barry White, Barry White. Blocco, prende come una skyline. Skyline, ti apro come un libro con i Butterfly, Butterfly, Butterfly. Spacco come il beat di Andrews Wright, Andrews Wright, Andrews Wright. Spacco come il beat di Andrews Wright, GA by night. Entro come Barry White, salto la fila, lime e tequila, tabacco sativa, mojito Muay Thai. Pronti al decollo, all'Italia, ogni bomba che rollo, salti in aria, siamo gentaglia, per la strada, pompa sto pieno, benzinaia. After Hours, Barry White, Frank Sinatra, Frank Sinatra. Vieni ai live, segui il crew, nel post serata, nel post serata. 10 vuote sopra il tavolino, bel vedere, guarda quella tipa, bel sedere, cameriere, dai da bere. Io e Frank insieme siamo il meglio, IDR, Andrews Wright, top player, top player, top player, top player.